Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. La storia che voglio raccontarvi oggi è la storia di una assenza, perché stiamo parlando di una donna sulla quale addirittura molti si domandano ma non c'è più, no? Lei c'è ancora, anche se non la si vede in televisione, i mass media, come dire, non pubblicizzano nulla di nuovo, eppure lei è una delle grandi donne del nostro paese, una che ha fatto delle sue cadute, delle sue difficoltà, il motore di un talento da attrice, un'attrice come poche al mondo. Lei è stata capace di farci passare dalle lacrime, dalla riflessione alle risate, veramente una attrice a doppia chiave di lettura. Stiamo parlando della grandissima Monica Vitti, e molti di voi ci hanno chiesto di parlare di Monica Vitti. Tra queste persone c'è Sonia, che ci ha scritto delle cose particolarmente toccanti su Monica Vitti, e noi abbiamo Sonia. Ciao Sonia. Ciao Enrico, che piacere, come sono felice che abbiate accolto la mia richiesta. Grazie Sonia. Senti, perché ci hai chiesto di Monica Vitti? Beh, perché Monica Vitti è un'attrice straordinaria, proprio per le ragioni che hai detto tu poco fa. Io ho amato i suoi film, quelli che ha fatto con Antonioni, poi quelli anche comici con Alberto Sordi. Sì. E la sua verve che la rende così straordinaria, credo che sia rara una dote come la sua. È vero, è vero, è vero. Sonia, ti ringrazio, buona puntata. Grazie a te. Un bacione. Ciao. Pronti? E allora? Allora andiamo. E dove andiamo? Andove? Andove? Ma andove vai? Se la banana non c'è. Beh, questa è la celeberrima canzonetta di Polvere di Stelle, che è uno dei film più popolari, più belli, di Monica Vitti e Alberto Sordi. Peraltro loro sono una coppia cinematografica indimenticabile, e il film è uno di quei film, quelli che io adoro, quelli nei quali si ride, ma di quel riso agrodolce che nasconde cose ben più profonde di una semplice battuta. Partiamo con la nostra storia da una famiglia romana con radici antiche. A Roma nasce una bambina che si chiama Maria Luisa Ceciarelli, è un martedì 3 novembre 1931. Io credo di essere nata a via Francesco Crispi, nella Roma umbertina, per intenderci. Mio padre era romano, quello delle famose sette generazioni, e mia madre era bolognese. Mio padre era ispettore del commercio estero e ci portava ovunque, perché doveva spostarsi per lavoro. Siamo andati in Sicilia e dopo siamo tornati a Roma. Io sono un'innamorata pazza di Roma, per i colori, per l'ironia della gente. C'è adrenalina nell'aria. Monica ha due fratelli, Giorgio e Franco. Il lavoro del padre costringe la famiglia a spostamenti frequenti, e quindi si va in Sicilia, a Messina. Lei è bambina, poi scoppia la guerra, iniziano i bombardamenti e stanno preparando lo sbarco anglo-americano. In qualche modo, però, anche nelle tragedie, perché stiamo parlando di una tragedia, però Monica Vitti in qualche modo deve essere grata a quelle bombe, perché saranno le notti passate nei rifugi, negli scantinati del suo palazzo, a farle scoprire un talento particolare, con la complicità del fratello. Mio fratello ha detto: qui bisogna organizzarsi subito, e costruì con un elemento dove avevano trasportato un divano, ha messo intorno una coperta, lui si è messo dietro, ha messo un fazzoletto qui, come tu sai bene, ha disegnato gli occhi e la bocca, e abbiamo fatto i burattini. E io stavo dietro, facevo la voce di questi burattini, e da questi pupazzetti con gli occhi che mio fratello faceva e che io animavo, è venuta la mia professione. Tale era la gioia di intrattenere gli altri, di distrarli dai dolori, di distrarli, di non farli pensare più a niente, di farli ridere per un secondo. Era talmente grande la gioia dentro di me che ho detto: io questa roba qui magari la potessi rifare. E intanto in Sicilia arrivano gli alleati, così la famiglia si sposta a Napoli. Poi anche lì la situazione si fa pericolosa, perché gli alleati, insomma, stanno risalendo la penisola, e allora si va a Roma, la città d'origine. Lei è ancora una ragazzina quando quella voglia, diciamo, di palco, di pubblico, la voglia anche di rinascita di un paese intero, una voglia nata sotto le bombe, trova la sua prima soddisfazione, perché a 14 anni debutta sul palcoscenico. L'esordio è determinato da La nemica di Dario Nicodemi. Lei dovrebbe recitare in un ruolo adatto alla sua età, però si innamora del personaggio della madre, insiste finché non glielo lasciano fare. Lei è solo un adolescente, ma riesce a essere credibile nella parte drammatica di una donna di 45 anni che perde il figlio in guerra. Questa è un'esperienza che la conquista. Lei decide che questa è la sua strada, che vuole percorrerla seriamente. Lei vuole recitare davanti al pubblico, e a Roma c'è l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica diretta da Silvio D'Amico, il suo maestro, e lei ne è attratta fin da ragazza. Fa la domanda per entrare e i genitori danno parere contrario, ma certe pulsioni nessuno le può fermare. I miei genitori non hanno mai condiviso la mia scelta. Un giorno mia madre mi disse: la polvere del palcoscenico corrode l'anima e il corpo. E studia con profitto all'Accademia, esce diplomata nel 53, inizia una carriera teatrale, però non durerà molto questa carriera. Sarà formativa, fondamentale per tutte le sue esperienze successive, perché lei parte dal teatro classico, Shakespeare, Molière, sperimenta però anche i colori della comicità, comincia a mostrarsi, insomma, questa sua versatilità, che sarà poi una delle caratteristiche del suo personaggio. E in particolare lei ha un altro dei suoi maestri d'accademia, che è un altro mito, Sergio Tofano. Io temo che i più giovani non sappiano chi è Sergio Tofano, peccato, perché intanto è un attore grandissimo, poi ha interpretato anche Caroselli, per esempio ha fatto il personaggio del signor Bonaventura, che peraltro aveva creato, disegnato, interpretato lui con la sigla di Sto, S-T-O, un grande. Comunque, Sergio Tofano consiglia a Maria Luisa di darsi un nome d'arte che suoni più artistico, e la scelta avviene un po' a tavolino, perché lei prende un pezzo del cognome da nubile della madre, Vittiglia, e associa un nome che le piace, perché l'ha appena letto in un libro. Insomma, nasce Monica Vittiglia, cioè contratto Monica Vitti. Con questo nuovo nome entra e recita nel Teatro Olimpico di Vicenza nel 1956. La partenza niente male, l'Amleto di Riccardo Bacchelli, cioè l'Amleto di Shakespeare, fatto da Bacchelli, diretto da Enzo Ferrere, e lei ha il ruolo di Ofelia. È un grande successo, lei raccoglie critiche molto positive, insomma è pronta per il suo primo colpo d'ala, quello che la allontanerà dalle assi di legno del proscenio per lanciarla nel mondo del cinema. Il falco e il gabbiano. E abbiamo lasciato la nostra protagonista Monica Vitti in procinto di dare il primo grande colpo d'ala nella sua carriera straordinaria, quello che dalle prime esperienze teatrali la porterà al grande schermo. Quella che intraprende non è subito la strada della comicità, quella della commedia brillante che ha già sfiorato nei primi anni di carriera, ma lei gira dei film, ovviamente all'inizio non importantissimi, e poi nel 58 esce con una pellicola firmata da Mario Amendola, Le dritte. Nel cast con lei ci sono Sandra Mondaini, Paolo Panelli, Bice Valori. Lei vive da subito un grande amore col cinema, come con la recitazione ovviamente, perché è una donna complessa, ha sempre avuto l'immagine di una persona senza eccessi, ha un animo fragile, articolato, come si immagina essere un artista vero. La recitazione per lei è terapeutica, fa dimenticare i suoi tormenti esistenziali, quelli che vivono le persone sensibili come lei. Che bella idea fare l'attrice, ti prendi la storia che vuoi, i personaggi che vuoi. Qualche volta fai finire la tua storia come vuoi. Ti fai amare, ti puoi far baciare e lasciare. Puoi nascere e morire mille volte, ridere e piangere, e poi torni a casa. In quegli anni lei fa anche la doppiatrice, cosa che peraltro farà ancora anche in seguito. E proprio durante il doppiaggio del film Il Grido del 57 conosce il regista di quest'opera, che è anche lo sceneggiatore. è un 45enne, si chiama Michelangelo Antonioni. È l'incontro tra un autore e la sua musa, l'inizio di una collaborazione professionale, ma anche di una relazione sentimentale che durerà 10 anni, che regalerà al cinema grandi interpretazioni di Monica Vitti, in particolare 4 film che sono il ciclo di Antonioni sul tema dell'incomunicabilità. I film sono L'avventura nel 60, La notte del 61, L'eclisse del 62 e poi il coronamento, l'acclamatissimo Deserto rosso del 64, il primo film a colori di Antonioni, che vincerà il Leone d'Oro a Venezia. Questo è proprio Antonioni alla premiazione. Ma mi pare proprio che non ci sia nient'altro da dire se non che sono molto contento. Vorrei però aggiungere una cosa, che in questa battaglia che io, come dice giustamente Bersani, ho sostenuto in tutti questi anni per gli ultimi miei film, io ho avuto vicino a me una persona che ha collaborato con me con molto coraggio e con molto valore. Vorrei ringraziarla qui pubblicamente. Si tratta di Monica Vitti. Noi a questo punto abbiamo bisogno di aiuto per parlare di questo profondo binomio, di questo legame Monica Vitti, Michelangelo Antonioni, e l'aiuto è Elisabetta Antonioni, nipote del grande regista. La saluto. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno. Dunque, stiamo parlando di un rapporto importante, cioè 4 film chiave, no? Di Antonioni, e un rapporto, diciamo, tra un regista e una musa in qualche modo. Cioè, come erano loro sul set? Io sono stata sul set di Deserto Rosso, ero poco più di una bambina. Sì. E come erano loro sul lavoro, nella vita, diciamo? Allora, sul lavoro erano rigorosissimi, mio zio pretendeva veramente l'inverosimile da tutti e quindi anche da Monica. Sì. Lei era molto, molto, molto accondiscendente, sì. Cioè in senso positivo. Sì, cioè sapeva che poteva fidarsi. Sì. Sì, si affidava a lui, sapeva che lui in qualche modo era un regista che sapeva guidarla bene, anche se mio zio non dava indicazioni precisissime sul da farsi, ecco. Però io ho sempre visto, io bambina o quasi, mi sono accorta della sua professionalità, perché proprio lei sembrava che facesse tutt'altro prima di una scena, mentre i tecnici preparavano il set e così, si limava le unghie, parlava. E invece eccetera. Si stava concentrando. E poi quando invece scattava il ciak era estremamente professionale, entrava pienamente nel personaggio. Certo. E nella vita privata c'era questo rapporto, direi, un po', adesso non vorrei usare delle parole forti, però Monica era sempre un passo indietro rispetto a mio zio. Sì, sì. Penso non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Sì, sì, sì. Evidentemente lo ammirava molto, sì. Oltre che amarlo. Certo. e quindi non le pesava questa certo. Diciamo, chiamiamola superiorità, ecco, sì, sì, sì, non, sì. Non era reale, ma insomma lei la sentiva come una persona superiore a sé, quindi si stava volentieri un attimo in disparte, certo, rispetto, certo, a mio zio, certo. Ecco, non so se sono riuscita a spiegarmi perfettamente bene. Perfettamente. L'ultima domanda: quali sono invece le caratteristiche che hanno colpito Antonioni dal punto di vista cinematografico e di riflesso, sì, poi dal punto, sì, di vista personale? Certo, c'è quella famosa storia, che però è vera. Monica stava registrando in un teatro di posa e Michelangelo entrò, naturalmente non la conosceva, le vide la nuca, perché lei aveva i capelli raccolti in alto, e le disse: lei ha una splendida nuca. E da quello iniziò praticamente un rapporto sia affettivo che anche di sodalizio lavorativo. Elisabetta, grazie infinite, ci hai aiutato a districarci, grazie, di una storia così complessa. Grazie a voi di avermi dato l'opportunità di parlare di Monica. Grazie. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Lo abbiamo detto, quella di Monica Vitti è una storia particolare, una storia di tanti colpi d'ala, cambi di direzione, di percorso, quelli che hanno fatto di Monica Vitti l'attrice, che è il colpo d'ala successivo, è praticamente è quasi incredibile, perché dopo aver conquistato l'attenzione di tutti con dei ruoli così drammatici, così intensi, lei è pronta a fare un salto clamoroso, il salto verso la commedia, e sarà probabilmente Mario Monicelli a far esplodere quel talento incredibile, e ne parleremo di questo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di una delle più grandi attrici italiane di sempre, Monica Vitti, una donna che è stata capace di imporsi nella commedia dopo aver lasciato un segno nelle pellicole più impegnate, drammatiche, con 4 film realizzati con Michelangelo Antonioni, insomma doppio colpo d'ala e doppia chiave di lettura. E questa non è solo una vicenda di cinema, è anche la storia di una donna, di una diva antidiva, che ha fatto forse della propria normalità, delle proprie fragilità, proprio la sua arma più affilata. È una che era capace di dire con la sua ironia di avere il merito di avere sdoganato le bruttine nel cinema, proprio lei che insomma bruttina non era, era una donna particolare, perché la donna per piacere, per lasciare un segno deve essere particolare. Quindi dopo i ruoli negli anni 60, nei film di Antonioni, quelli del ciclo sulla incomunicabilità, lei peraltro rimane compagna per almeno 10 anni di Antonioni, lei poi lavora con altri registi di prima grandezza, da Buñuel a Tinto Brass, Luciano Salce, Joseph Losey, un film britannico molto bello dal titolo Modesty Blaze. Insomma, la via della commedia arriva, ma arriva soprattutto per merito di un altro regista italiano, il maestro Mario Monicelli, che la sceglie per La ragazza con la pistola, nella quale Monica recita la parte di Assunta Patanè. La pistola del titolo le servirà per vendicarsi dell'uomo che l'aveva disonorato dopo una fuitina, una fuga d'amore. È inutile che mi guardi con gli occhi da pesce motto. Io donna onesta sono. No. Inutile che fai. Io come un pezzo di mammo sono. Una motta stai baciando. Che fu? Mi casco il coltello. No, e dove mi botti? Dove vai? No, no, signorto, no. Non sento niente. Un pezzo di ghiaccio sono. E allora sì, arrovinami. E questo è il film che la lancia nel genere commedia, e lei diventerà di questo genere una colonna portante, e il suo talento viene confermato nel 70 con il film di Scola, Dramma della gelosia, tutti particolari in cronaca. Era quello in cui lei si trova imputata, un film con Giancarlo Giannini, con Gassman, con Claudia Cardinale, un film bellissimo. Poi c'è La Tosca di Luigi Magni, un film del 69, però è quello che fa nascere un sodalizio artistico che durerà nel tempo, quello che le dà la maggiore notorietà presso il grande pubblico. Il film è Amore aiutami, con Alberto Sordi, che di quel film è anche il regista. È quello della famosa scena in cui Giovanni, cioè Alberto Sordi, che è pacato, che è comprensivo nonostante il tradimento della moglie Raffaella, che è lei, Monica Vitti, di colpo esplode, perché, come dire, tutta questa patina di uomo tollerante, comprensivo degli anni 70, come si diceva, alla fine non regge, perché non è così, e quindi lui la prende a schiaffoni su una spiaggia dell'Italia litorale romano, e la manda all'ospedale. No, no, basta, basta, mamma mia, come mi hai fatto male, oddio mamma, oddio, oddio, oddio mamma, come mi hai fatto male, dove sei, dove sei, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, dove sei, dove sei Giovanni? Eccomi, dillo ancora, lo amo, dillo! No, no, no, non lo amo più. Oh. I was dreaming of the past. E in quel film famoso c'è questa scena celeberrima, la scena in cui Alberto Sordi picchia Monica Vitti per amore. Lei scappa, rotola tra le dune della spiaggia. In realtà Monica, come avevamo già detto in un'altra puntata a lei dedicata, cioè alla persona che sto per presentarvi, Monica usa una controfigura, ed è una controfigura che abbiamo al telefono, ed è, come dicevo, una persona alla quale noi abbiamo dedicato una bellissima puntata, che in un'altra sua vita precedente, delle tante che ha avuto, si prendeva gli schiaffi da Alberto Sordi. Fiorella Mannoia, buongiorno. Buongiorno, ciao Enrico, buongiorno. Buongiorno, ciao Fiorella. Hai detto bene, sì, ero io. Eri tu in un'altra vita, giovanissima. Quanti anni avevi? 15, 16? Una vita fa, sì. Non so, 16, 17, non sì. Ricordo più. Senti, allora, intanto anche lì, poi insomma, lo hai fatto molto più spesso con le canzoni, ma anche lì hai attraversato la storia, perché quella è una delle scene più famose della coppia Sordi. Quando Sordi diceva, di che non lo ami, e lui sì che lo amo, sì che lo amo, veramente la gonfia dei botti. Certo. Senti, ma tu hai lavorato più di una volta con Monica Vitti. Sì, io ho lavorato, in realtà credo di aver fatto più o meno 4 film con Monica Vitti, se non mi sbaglio era Amore Mio Aiutami, sì. Le Coppie con Dino Risi, sì. Poi era un altro film con la regia di Roberto Russo, si chiama Noi Donne Siamo Fatte Così, sì. E mi pare Ninì Tirabuscio, mi sembra, non mi sbaglio sono questi 4 film. E quindi c'era un rapporto, com'era lei? Che tipo di persona era? Guarda, era molto simpatica. Molto simpatica e una grande attrice. Ecco, io mi ricordo che quando arrivava sul set dello set la mattina, struccata, con gli occhiali, spettinata, andava al trucco, e lì sembrava una donna normale, cioè una qualsiasi bella donna, ma normale. Poi quando si presentava sul set vestita, truccata, il set si ammutoliva. Cioè lei aveva una bellezza che non te la so descrivere, oltre che la bravura, non so, aveva un alone. Io me lo ricordo perché ero piccola, ero una ragazzina, ero affascinata, la guardavo sempre, guardavo cosa faceva, come lo faceva, come recitava. È una donna, è stata una donna molto esigente, lei voleva vedere tutte le fotografie, pensa, allora per sua fortuna non c'erano i telefonini, per cui le foto c'erano i fotografi di scena che fotografavano, e lei ci teneva molto alla sua immagine, lei ci teneva, sapeva come dovevano mettere le luci, sapeva come, e mi diceva sempre, ricordati quando farai, che lei lo sapeva che io amavo cantare, quando sarai che avrai il successo, oppure quando dovrai fare questo, ricordati che la faccia è la tua, sei tu che decidi, e se tu, perché noi abbiamo dei lineamenti che non possiamo venire benissimo e possiamo venire malissimo, dipende da come siamo illuminati, e questo, diciamo che questo mi è rimasto imparato da lei, ecco, perché sono insegnamenti. Grazie Fiorella, non c'è niente di meglio che parlare di una grande donna con una grande donna. Grazie Fiorella. Grazie Enrico. Ciao. Grazie, le sono molto affezionata, per cui sono contenta che tu mi abbia chiamato. Grazie, un bacione. Grazie. E così per tutti gli anni 70 lei è protagonista della stagione probabilmente più fortunata di quel tipo di commedia all'italiana, però di lei si accorgono registi all'estero, Buñuel la chiama per Il fantasma della libertà del 74, André Cayat per Ragione di Stato del 78, naturalmente la sua grande popolarità la porta in televisione, perché erano anni in cui in televisione andavano quelli bravi, canta per esempio con Raffaella Carrà e Mina in Mille Luci, è l'ultimo varietà al quale Mina prende parte. Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti, bisogna andare molto cauti, perché i crauti sono quella cosa che si schiaffano dentro ai barili, poi si vendono a chi? 4 etti, mezzo etto a piazzetti. E poi nell'80 torna a lavorare con Antonioni nel Mistero di Oberwald e poi si divide per tutti gli anni 80 tra cinema e teatro. È impossibile raccontare tutto il suo lavoro tappa per tappa, decine e decine di film, anche con registi esordienti come Roberto Russo, con il quale gira Flirt, che le vale il premio come migliore attrice a Berlino, e poi Francesca Mia nell'86. E per entrambi questi lavori lei partecipa anche come sceneggiatura, perché lei ha anche un grande talento per la scrittura. E poi nell'88 il giornale francese Le Monde incappa in una gaffe storica nei suoi confronti, la dà per morta per suicidio, e lei la prende con molta ironia, smentisce e ringrazia Le Monde per averle allungato la vita. Poi nel 90 debutta addirittura alla regia Scandalo Segreto, scrive, lo interpreta, e poi 2 anni dopo recita in una serie per la TV, Ma tu mi vuoi bene, con Johnny Dorelli, ancora in TV nel 93, nel 94 nel cast di Domenica, e nel 95 il cinema italiano la consacra con un Leone d'Oro alla carriera, alla Mostra del Cinema a Venezia. E beh, certo, adesso posso volare, questo è un leone, dunque mi difenderà alle ali, dunque mi porterà lontano. Ho lavorato tutta la vita, ho debuttato a 14 anni e mezzo, perché recitare per me era ed è la mia vita. È come cercare di continuare a giocare, di riconquistare la vita tutti i giorni. Perciò questo mi darà la possibilità di continuare, state tranquilli, fino a 90, 95 anni. Vi toccherà vedere film da ridere, da piangere, e spero di poterli fare in compagnia di queste meravigliose persone che sono qua. Perché se c'è un mestiere che noi sappiamo fare bene, è proprio il cinema. Perciò grazie mille di avermi aiutato, grazie di essere qui. Grazie a Monica Vitti, grazie. Purtroppo quella promessa di recitare fino a 90 anni non ha potuto mantenerla, perché dalla fine degli anni 90 lei diminuisce notevolmente la sua presenza pubblica, la si vede di rado a qualche evento come i festeggiamenti per gli 80 anni di Sordi, poi c'è un'udienza al Quirinale nel 2001 e poi c'è la sua ultima apparizione pubblica, è del 2002 alla Prima Italiana del Gobbo di Notre Dame. Da quel momento solo qualche immagine che la ritrae con il marito, il fotografo Roberto Russo, e poi nessuna notizia, tranne quella terribile che non avremmo voluto sentire, la notizia di una malattia degenerativa molto simile al morbo di Alzheimer, una malattia che la colpisce negli ultimi anni e che rende probabilmente ancora più dolorosa la sua assenza, perché non è un'assenza cercata, è un'assenza imposta dal destino, ed è doloroso per tutti quelli che la amano e l'hanno amata. Sono un'attrice comica e ho cercato di esserlo per quanto ho potuto, ma tutto si mescola, capite? Si mescola tutto. Adesso io vorrei potervi dimostrare. Io non so, voi mi date una sola sicurezza, ditemi se io ho un solo motivo. Perché quando io penso alla mia vocazione, io non ho più paura della vita, ve lo giuro. Ma datemi un motivo perché io possa avere fiducia in me o in voi, possa credere di piacervi ancora, ancora per quanto, io non lo so. E non so nemmeno più niente, non so nemmeno se sono riuscita a spiegarvi che cos'è un'attrice. In questo monologo c'è tutta Monica Vitti, è una donna che ha volato molto in alto con le sue ali, con i suoi colpi d'ala, perché è stata sempre spinta da un vento che è quello del talento, è un vento che investe alcuni, non tutti, e poi la sua sensibilità artistica, ma poi una vita piena di cambi, di traiettorie, una vita di virate improvvise, una vita camaleontica tra comico e tragico. Queste sono le vite che amiamo raccontare. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre storie su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite nella nostra pagina, oppure venitemi a cercare sui miei social, Facebook, Twitter o sui nostri social. Insomma, ci sono mille modi per trovarmi e voi li conoscete. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.